Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Suo padre, secondo la mitologia greca, si chiama Caos, sua madre Caligine, suo fratello Erebo. Da lei sono nati Etera ed Emera, la luce e il giorno. Ma anche Eris, la discordia, Ipno, il sonno, con il suo gemello Tanato, Nemesi, la vendetta, e Momo, il sarcasmo. È la notte, l'altra faccia del giorno, accogliente, magica, intrigante, ma anche paurosa, oscura, minacciosa. Sveglia, sveglia, sveglia, sveglia. No, la luce, la luce. Svegliati, Daniele, l'abbiamo già svegliato, sta di là che ci aspetta. Fra un quarto d'ora è il momento peggiore della giornata. Perché? Tra un quarto d'ora sono le tre. Svegliati. È l'ora del lupo. È l'ora del lupo, è l'ora più brutta. È l'ora in cui sei più soli, è l'ora in cui sei più soli. Da 12 anni, Daniele, alle 3 lo prendiamo e lo portiamo sempre a lettone con noi. Sono... Entrate, entrate. Allora, Daniele, come va? Come sta andando questa Bene. Notte? Hai paura? No. Lo vedi quanti siamo a farti compagnia? Sì, sotto sì. Le coperte, via! Via! Sicuro che non hai paura? Sì, sì. Ma sai che Daniele non ha mai avuto una babysitter? No? Perché? Perché noi tutti questi anni sempre siamo rimasti con lui. Sempre? Se mai usciti. Mai. E allora ci siamo letti tutto. Abbiamo letto von Kleist. Hegel. Spinoza. Federico Tozzi. Abbiamo letto Senofonte, tutto Senofonte. E poi abbiamo Erodoto. Tutto tacito. Tacito tutto. Da caro diario. E noi prendiamo il passo per parlare della notte. C'è chi nella notte trova riposo e chi lo vorrebbe tanto ma non ce la fa. C'è chi nella notte trova conforto e chi affanno. Chi la notte la teme, chi dalla notte si fa sedurre. Che rapporto avete voi con la notte? Che metafora usereste per descrivere l'altra faccia del giorno? Che cosa di lei vi piace, vi affascina? E che cosa vi turba o vi disturba? La vita è una grande corrida, ma la notte no. Ogni giorno una lotta, chi sta sopra chi sotto, ma la notte no. Al mattino è un po' grigio se non c'è il dentifricio, ma la notte no. Tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un occhio, ma la notte no. Ma comincia il lavoro e dimentichi il cuore, parli sempre soltanto delle cose importanti, ma la notte no. E ti perdi la stima. Ma la notte no, ma la notte sì che porta consiglio. Professor Luigi Ferini Strambi, buongiorno. Buondì Nicoletta. Responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Non sappiamo se porti sempre dei buoni consigli, però, professor Ferini Strambi. Sappiamo se porta dei buoni consigli, però sicuramente la notte porta consigli. Noi lo sappiamo bene oggi perché abbiamo dei dati di ricerche che ci mostrano chiaramente come. Le faccio un esempio, Nicoletta. Il sistema, quel sistema che si chiama ad esempio sistema colinergico, no? Che funziona con una benzina particolare che è l'acetilcolina. Ecco, durante la giornata, durante il giorno, questo sistema funziona tantissimo perché è quello che ci permette di raccogliere tantissime informazioni. Poi questo sistema invece durante la notte deve assolutamente appiattirsi, tacere, perché durante la notte invece quello che abbiamo appreso durante il giorno in parte viene buttato via, in parte viene immagazzinato nella memoria, in parte viene rielaborato per quello che succederà il giorno dopo. Quindi è proprio vero che parte del nostro cervello funziona proprio per darci poi le indicazioni su quello che dobbiamo fare di giorno. Mi scrive a Carina sul nostro profilo Facebook, andiamo a sentire. Vorrei appoggiare la testa sul cuscino e addormentarmi, ma la mia testa inizia a farfugliare di tutto e di più. Vorrei staccare la spina, ma non trovo l'interruttore. Uffa. Insonnia o che altro? Perché non riusciamo a staccare la spina? A volte siamo stanchi, morti, ma sembra che i pensieri si siano dati tutti contemporaneamente appuntamento dentro la nostra testa. Che confusione, che affanno. In linea con noi il dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci sono anche notti difficili. E come no, perché il professore diceva prima che la notte porta consigli. È vero, la notte porta anche emozioni. E quelle emozioni che porta non sempre siamo in grado di gestirle nel modo migliore. E come si fa? Beh, intanto bisognerebbe cominciare a riconoscerle, riuscire a distinguere che emozioni stiamo provando per provare a mettere ordine in quello che succede. È anche più facile perché la notte è più silenziosa, il tempo può allungarsi e diventare un tempo che non passa mai, e a quel punto la paura, la rabbia, la tristezza, la solitudine possono aggredirci e non sappiamo più che fare. Dobbiamo semplicemente provare a stare in contatto con quello che ci capita dentro e riuscire poi pian piano ad imparare ad avere padronanza su questo, dandoci delle istruzioni più adatte. Ce la possiamo fare e intanto i nostri esperti sono a vostra disposizione, ma saluto subito Fabio, ci chiama da Milano. Ah, Fabio. Sì, salve a tutti. Dunque, mi chiamo Fabio, ho 31 anni, sono di Milano, come appunto lei ha anticipato, e per me la notte è molto affascinante, devo dire la verità, perché io come secondo lavoro, diciamo, soprattutto nel weekend faccio il fotografo e quindi molto spesso mi sposto da Milano in altre parti d'Italia e viaggio la notte, soprattutto in treno, per guadagnare poi anche il tempo nel fine settimana per essere già nei posti dove devo andare a fare fotografie già dalla mattina. Sì. E è proprio cioè io ho notato, io già dormo poco, nel senso che dormo 6-7 ore al massimo a notte, però quando poi ho appunto la possibilità di viaggiare la notte, a parte che mi capita di riflettere anche molto sulla giornata trascorsa, quindi anche il fatto di non sentire rumori intorno a me, di stare in silenzio, mi consente appunto ecco di riflettere, di pensare a quello che devo fare, a quello che ho fatto, o in che cosa posso anche magari migliorare. E poi soprattutto anche l'esperienza del viaggio in treno, per esempio, la notte, può magari non sembrare così frequente, ma in realtà si fanno anche degli incontri assolutamente particolari proprio anche in treno, perché la notte c'è tutta un'altra fauna, adesso non so... Chi ha incontrato? Perché lei ce la racconta, si fanno degli incontri e le è venuto un po' anche così da sorridere. Sì, chi no, ma incontri perché cioè, veramente io viaggio sempre, quasi sempre da solo. E in genere i treni che prendo sono quelli che arrivano al sud, quindi in Puglia, in Calabria, addirittura in Sicilia sono treni che fanno viaggi infiniti, diciamo, e quindi si incontra il militare di 24 anni che sta a Bellinzago Novarese e deve scendere giù a Catanzaro piuttosto che altre persone, quindi ecco, magari poi tra una cosa e l'altra magari io non ho niente da dire o non sto facendo niente, l'altra persona neppure, si inizia ad attaccare bottone e dopo 2 ore sembra che siamo grandissimi amici, quindi è tutto molto particolare, ecco, io... E anche il paesaggio, lei che è un fotografo, no? Cambia. Sì, ma infatti io molti posti ho avuto, proprio per questo mio modo di intendere anche il viaggio, ho avuto modo di fotografare dei posti meravigliosi all'alba. E la luce mi manda una sua foto anche sul nostro profilo Facebook, ce la regala? Come no? Allora l'aspettiamo, Fabio. Certamente, la ringrazio. Grazie, allora, grazie a Fabio. Salve. La notte ha un fascino particolare. Raccontatecelo voi che vivete di notte. Henry De Luca la descrive così. È bella di notte la città. C'è pericolo, ma pure libertà. Ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i giocatori. Stanno aperte le osterie, le friggitorie, i caffè. Ci si saluta, ci si conosce tra quelli che campano di notte. Le persone perdonano i vizi. La luce del giorno accusa, l'oscuro della notte dà la soluzione. Escono i trasformati, uomini vestiti da donna, perché così gli dice la natura e nessuno li scoccia. Nessuno chiede di conto di notte. Escono gli storpi, i ciechi, gli zoppi, che di giorno vengono respinti. È una tasca rivoltata, la notte nella città. Escono pure i cani, quelli senza casa. Aspettano la notte per cercare gli avanzi. Quanti cani riescono a campare senza nessuno? Di notte la città è un paese civile. Grande Henry De Luca, e vista così la notte, dottor Aquila, ha tutta un'altra faccia. E certo, c'è il fascino della notte che per alcune persone è notevole. Il nostro ascoltatore Fabio di prima ci raccontava che lui ha una rappresentazione mentale della notte buona, di riflessione, di begli incontri, di creatività, la gente in treno che lui descriveva con delle pennellate molto, molto significative. E c'è anche la notte magica che descrive in qualche modo Henry De Luca, e c'è anche, Henry De Luca lo accennava soltanto, una notte invece tragica e drammatica, ma quella che descriveva Henry De Luca è la notte di chi sta in giro. Ci sono invece, da tenere presenti, le notti di chi sta a casa, e sta a casa in preda ad emozioni negative, a preoccupazione allarmata, a sogni o incubi che lo fanno star male. Quindi anche la notte, come il giorno, ha un aspetto bello e un aspetto, ahi noi, un po' meno carino. E noi li aspettiamo, i nostri ascoltatori, quelli che si passano la notte a casa e quelli che la notte escono. Ce la possono raccontare, come fa, immagino, Francesco. Sì, pronto, buongiorno, complimenti alla trasmissione. Grazie. Niente, volevo solamente dare il mio contributo, che praticamente per me la notte è una specie di tributo che ogni tanto devo dedicare anche se sono stanchissimo dopo il lavoro, un po' come diceva Ligabue nella canzone Certe Notti. Una specie di, che comunque anche se sono stanco, mi impongo di stare sveglio tutta la notte, girando anche da solo, frequentando casomai posti che di giorno non mi sognerei mai di frequentare, quindi posti di qualunque tipo, proprio come tributo a questa cosa fantastica che è la notte. Questa e quindi lei ogni tanto decide di passarsi una notte in bianco girando? Sì, girando in macchina o in moto da solo, indipendentemente poi dalla compagnia o da cosa si fa, anche solo girando ascoltando musica, non è quello, l'importante è sentirmi partecipe della notte, parte integrante della notte, quindi... Certe notti, macchina calda, e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio, non vuoi smettere, smettere mai. Pietro Lacorte e Laura Vanossi hanno pensato di, naturalmente, così dedicare al nostro ascoltatore uno splendido Ligabue. Ma professor Ferini Strambi, Paolo da Milano mi scrive: ogni ora di sonno è un'ora di vita persa, la notte va vissuta più del giorno. Però insomma, dormire fa anche bene, no? No, certo, no, no, io ho sentito con molto piacere tutto quello che è stato detto finora e sono d'accordo, perché la notte è sicuramente un momento affascinante, ecco, non vorrei che però l'elogio alla notte diventasse poi un elogio alla privazione di sonno, perché ecco, questo non va bene, perché comunque non dimentichiamoci che la notte ha una importanza fondamentale per il nostro organismo. Ecco, chiaramente per quelli che sono i cosiddetti gufi o i brevi dormitori, la notte ha un fascino ancora maggiore, no? Cioè, quindi quei soggetti che sono, secondo il proprio orologio biologico interno, destinati proprio a vivere molto più intensamente la notte che il giorno, perché il giorno invece diventa il momento in cui devono andare a dormire, insomma. Quindi, però questa è una categoria particolare, insomma. Se noi dobbiamo fare un discorso generale, la notte è sicuramente affascinante, ma è bene anche pensare a dormire ogni tanto, proprio perché sappiamo benissimo che la notte si porta dietro tante cose importanti. Tra l'altro, professor Ferini Strambi, ci sono persone che sono costrette a vivere di notte quando invece vorrebbero dormire, no? I turnisti, e quando si lavora di notte il fisico è proprio costretto a un'attività mentre vorrebbe dormire e viceversa. E questo scombussa i famosi ritmi biologici legati al ciclo solare di 24 ore. E poi non basta, perché durante il fine settimana molti turnisti tornano alle consuete abitudini diurne, i cicli dell'organismo cambiano di nuovo, insomma... È molto faticoso. Questo sicuramente, quello dei turnisti, è un grosso problema. Forse l'abbiamo già detto altre volte, ma lo ripeto, il fatto di fare i turni di lavoro è qualcosa che non può essere accettato da tutti. Cioè, c'è un terzo, un 30% delle persone che riescono ad adattarsi abbastanza bene ai turni notturni. C'è un terzo, un altro 30% invece proprio di persone che non riescono assolutamente a fare un lavoro a turni e quindi abbandonano subito il campo. E poi c'è invece un terzo che fa comunque turni, ma poi con delle conseguenze sulla salute. Le conseguenze, i turnisti lo sanno bene, le conseguenze più immediate sono quelle dei disturbi a livello dell'apparato gastrointestinale e anche disturbi come ad esempio l'ipertensione arteriosa, perché non dimentichiamoci che durante la notte, con l'inibizione del cortisolo, che è l'ormone che ci fa alzare la pressione, con questa inibizione la pressione scende. E quindi, voglio dire, è importante dormire anche per far, di notte, per far abbassare la pressione arteriosa. I turnisti, purtroppo, quelli che fanno i turni di lavoro notturno, non hanno questa inibizione del cortisolo, la pressione rimane alta durante la notte e quando poi vanno a dormire di giorno, purtroppo, ahimè, questo sonno di giorno non ha le stesse capacità del sonno di notte, quindi la pressione rimane alta. E il risultato, appunto, è poi quello che i turnisti, quelli che fanno lavoro di notte soprattutto, spesso hanno il problema dell'ipertensione arteriosa. Patrizia ci chiama da Reggio Calabria. Buongiorno a tutti, grazie per essere stata chiamata. Niente, tento sempre di dormire, riesco a dormire le prime ore, però dalle 2, dalle 3 del mattino in poi sono sveglia totalmente. La cosa strana è che non riesco a fare assolutamente niente se non pensare ai miei pensieri, rimanendo paralizzata sul letto, senza assolutamente agiarmi. Una cosa, un tentativo continuo di trovare di nuovo il sonno che non viene casomai per un pochino soltanto alle prime ore del mattino, verso le 6:30, così, però a quell'ora suona la sveglia e bisogna alzarsi. Assolutamente. Io volevo sentire un'interpretazione di questa notte per metà bianca della nostra amica Patrizia dal dottor Aquilar, e poi parleremo naturalmente con il nostro grande esperto di sonno. Ma dottor Aquilar, sicuramente Patrizia le ha dato degli spunti interessanti. Sicuramente, sembra quelle situazioni nelle quali c'è appunto un'insonnia che è legata a dei pensieri che in qualche modo sono attivanti e che scattano, di conseguenza delle emozioni, e forse anche a degli atteggiamenti, convinzioni e abitudini che andrebbero modificate. Sarebbe molto interessante chiedere a Patrizia da Reggio Calabria che pensieri le vengono in mente, se va sulla preoccupazione allarmata, se va sulla paura, se va sulla tristezza, se va sui progetti per il giorno dopo o se va sul bilancio del giorno prima. Nel momento in cui noi riusciamo a dare alle persone la possibilità di raccontare che cosa succede nella loro mente di notte, quando c'è un comportamento diverso da quello che loro vorrebbero, perché in questo caso l'ascoltatrice vorrebbe dormire ma non ci riesce, possiamo identificare le emozioni sulle quali dovrebbe questa persona dare più attenzione e possiamo anche identificare eventuali errori sia di pensiero che di atteggiamento che di abitudine che possiamo correggere per dare sollievo. Se di notte, non perché decidete di farvi una notte, andare a raccogliere la magia, come ci stanno raccontando molti dei nostri ascoltatori, ma vorreste dormire, invece non ce la fate, affidatevi ai nostri esperti, ma raccontateci anche che cosa vi passa per la mente di notte. Adesso però è il momento di prenderci una pausa, poi io vi aspetto di nuovo qui, mi raccomando, ritroveremo il professor Ferini Strambi, il dottor Aquilar, che con i loro consigli ci accompagneranno fino alle 12. E a proposito di consigli, vi ricordo che ogni giorno ce n'è uno per noi nel nostro Daily Lab. È molto semplice, andate sul sito www.radio24.it, cercate il Daily Lab, c'è la mia faccina con tante mail, cliccate e seguite alla lettera i consigli dei nostri esperti. Essere e benessere. Quando la notte cade giù, c'è pericolo, ma anche libertà. Vanno in giro quelli senza sonno, gli assassini, gli artisti e i giocatori. Che cosa ci piace e che cosa ci disturba della notte? Può fare paura anche ai grandi. Molte persone, quando cala la sera, sentono salire una strana agitazione. Chiamiamola frenesia. Sentiamo l'esperienza di Ilario, che ci chiama da Pordenone. Ci racconti delle sue notti. Sì, io volevo dire, appunto, sono un notturno, nel senso che, lavorativamente parlando, sono proiezionista, lavoro in un cinema. Di fatto il cinema, la prerogativa del cinema è l'oscurità, si lavora di notte, si stacca tardi E niente, è una buona possibilità, come dire, di godersi la notte in una sala condizionata. E il bello di questo lavoro è appunto il buio. E niente, semplicemente volevo dire che staccando tardi si ha la possibilità comunque di, oltre che guardarsi il film, di godersi un momento di pace nel silenzio della cabina. Far felici delle persone, perché il cinema è anche questo. Certo. E di fatto, staccando tardi, quello che volevo dire è che torno a casa talmente stravolto che ronfo per tutta la mattina. terra. Professor Ferini Strambi, Ilario ronfa, ma ci dice anche, no, ci racconta un po' della bellezza di questa notte. Certo, di questo silenzio che ci avvolge, il buio, e poi insomma. Ma questo è un aspetto, ecco, il nostro ascoltatore ronfa, ma ronfa perché fondamentalmente questa è un'altra cosa importante. Alla sera, prima di andare a letto, fa comunque delle cose piacevoli, cioè riesce a realizzare una cosa che diciamo così, ben si adegua a quelle che sono le sue aspettative, le sue aspirazioni e le cose che a lui piacciono. Questo è un aspetto fondamentale, perché molte volte, quando non si riesce a staccare la spina nel momento in cui si va a letto, molte volte la causa è proprio quella che nelle ore che precedono il sonno uno ha fatto delle cose praticamente non tanto piacevoli, o comunque cose che lo hanno agitato, gli hanno stimolato i centri della veglia, cioè quindi non qualcosa di rilassante. Non dimentichiamoci che quando dobbiamo addormentarci i centri della veglia si devono spegnere e devono prevalere quelli del sonno. Se noi facciamo delle attività rilassanti e piacevoli, questo può avvenire molto più facilmente. Se noi ci arrabbiamo, facciamo delle cose, diciamo così, poco piacevoli, o che ci disturbano, che ci eccitano, che chiaramente i centri della veglia rimangono molto attivi ed è quindi difficile spegnerli. Dottor Aquilar, infatti ci sono persone che ricorrono a delle tecniche di rilassamento, voi anche lo psicologo, lo psicoterapeuta suggerisce, no, alla persona come disinnescare questi pensieri, questi affanni che spesso non ci fanno dormire, insomma, quando la vita di giorno è complicata è difficile, no? Dormire bene di notte, questo non bisogna essere un esperto per sapere, l'abbiamo provato tutti, ma possono, poi quello che cambia è la frequenza, no? Di questo disturbo. La frequenza del disturbo è quello che cambia, è appunto l'abilità delle singole persone nel gestire, come nell'esempio che portava il professor Ferini Strambi, nel gestire le emozioni e i pensieri della fase di addormentamento. Quindi tra le manovre che vengono poi consigliate in psicoterapia e soprattutto nelle psicoterapie di tipo cognitivista ci sono anche delle istruzioni concrete. Proviamole. Su come riorientare l'attenzione, non solo come rilassarsi. Ne possiamo dare qualcuna? Ah certo, cominciando proprio dalle più banali, per esempio quella di andare a dormire soltanto quando ci si accorge di essere assonnati e di far fatica a tenere gli occhi aperti, oppure di usare il letto soltanto per dormire, mentre invece ci sono alcune persone che hanno tutta una fetta di vita che si svolge nel letto, per cui il letto è più associato ai centri della veglia che non a quelli del sonno. Altro suggerimento semplice è niente sonnellini durante il giorno se abbiamo problemi con il sonno notturno, ma soprattutto la questione è che se ci sono dei pensieri che potrebbero alterare il nostro rapporto col sonno e con la tranquillità che precede l'addormentarsi, toccherebbe trovare un tempo e un luogo per pensarci sopra e non concentrarli tutti nel momento dell'addormentamento. Se ci abbiamo già pensato un po' durante il giorno, saremo più sollevati nel momento in cui decidiamo di goderci il nostro meritato riposo. Cammina. Io non voglio andare a letto, io non voglio andare a letto. Michi, va a dormire. Sono già stato ieri notte. Metti un pigiama. Volte alla settimana devo andare a letto. Insomma, a volte si passano delle notti in bianco non perché abbiamo dei pensieri particolari o perché il lavoro ce lo impone, ma anche perché il pupo ci sveglia. In linea con noi abbiamo il professor Oliviero Bruni, responsabile del Centro del Sonno per l'età evolutiva dell'Università di Roma La Sapienza. Buongiorno professore, bentornato. Grazie, buongiorno. Professore, ci sono dei bambini piccoli che scambiano il giorno con la notte. Adesso poi noi diciamo, di solito poi, no, gli amici dicono perché tu l'hai preso in braccio, gli dai i vizi, perché... Cioè, però alla fine, ecco, le notti diventano bianche, ci si alterna col papà e la mamma, il papà si alternano, ma è una bella fatica. Anche con i nonni a volte. Io adesso i nonni cercano giustamente di darsela. Sì, dicono, sì. Insomma, siamo già stati svegli con voi, adesso ve li spupazzate un po' voi. Ma che cosa possiamo dire agli ascoltatori che in questo periodo si trovano a cullare il pupo che non sembra aver nessuna voglia di dormire? Ma abbiamo diversi tipi di problemi, insomma, nel senso che ci sono bambini che hanno difficoltà a addormentarsi e quindi i genitori sono obbligati ad attuare delle tecniche assolutamente a volte paradossali per poter farli addormentare, e i bambini, come lei diceva prima, che scambiano il giorno per la notte. In genere parliamo di bambini molto piccoli in questi casi. Ecco, quindi già in questa frase vuol dire che quando crescono i problemi finiscono, ne arrivano altri. Intorno ai 3-4 anni, in generale, in linea di massima, i problemi finiscono. Bisogna stare attenti perché i problemi si trasformano, nel senso che i problemi che potevano essere di sonno ad un certo punto continuano in parte a rimanere problemi di sonno, ma diventano problemi comportamentali diurni. Quindi i bambini che dormono male in genere hanno tutta una serie di disturbi comportamentali a lungo termine. Ad esempio? Quindi bisogna fare una prevenzione, ad esempio problemi di disturbi dell'attenzione, iperattività, problemi di rendimento scolastico successivo, che sono strettamente correlati anche al mantenimento dell'attenzione. Quindi esistono degli studi che hanno correlato direttamente problemi precoci di sonno e successive difficoltà a livello scolastico. Professore, ma se il bambino piccolo, stiamo dicendo, scambia il giorno con la notte, come faccio a fargli prendere il ritmo giusto? Allora, fargli prendere il ritmo giusto, per prima cosa bisogna cercare di capire qual è il ritmo del bambino, cioè nel senso lasciare il bambino ai propri ritmi senza volerlo obbligare necessariamente a farlo dormire in determinate ore. Poi, una volta che abbiamo capito qual è il ritmo del bambino, cerchiamo di modificarlo significa gradualmente cercare di spostare gli orari di addormentamento o di risveglio in modo che riusciamo a sincronizzare con quello che è il desiderio poi nostro rispetto alle esigenze sociali, insomma, e ovviamente familiari. Ci vuole un po' di tempo, vero? Ci vuole un po' di tempo, gradualmente col tempo, ma la cosa si risolve se viene fatta una terapia, che è quella terapia cognitivo-comportamentale di cui si parlava poi prima, che permette sia al genitore che al bambino di gestire meglio il momento del sonno. Ci sono delle tecniche che permettono questo. Ci si può aiutare con delle terapie farmacologiche che non devono essere necessariamente demonizzate, ma aiutano molto in situazioni che poi sono cronicizzate, perché spesso prima che arrivino dal medico, dallo specialista, i genitori aspettano che il problema passi da solo, che si risolva da solo, e in realtà invece si instaura un tipo di ritmo che poi diventa quello stabile del bambino, e lì è un pochino più difficile, ovviamente, solo con la terapia comportamentale cercare di modificarlo. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, la saluto. Lei dorme bene? Io sì, abbastanza. E la notte di solito che fa? Dorme? La notte vado a letto molto tardi perché lavoro. Ma le notti romane, il fascino della capitale di notte, molti ascoltatori mi scrivono, qua non sa quanto è bella Roma di notte. Sì, l'abbiamo tutti, no? Abbiamo avuto tutti occasione, la fortuna di farsi una passeggiata per le strade di Roma di notte, e tutte le città hanno un fascino particolare di notte, anche Roma? Assolutamente. Qualsiasi quartiere di Roma, eccolo che viene fuori, Testaccio, insomma, ecco lì ci si perde e non si pensa ad andare a dormire assolutamente. Grazie professore per essere stato con noi. E da Roma andiamo a Vicenza perché ci aspetta Bruna. Buongiorno Bruna, benvenuta. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Grazie. Allora, io volevo chiedere una cosa. Sì, due. Ecco, io vado a letto e le prime 2-3 ore dormo, poi comincio a svegliarmi e mi sveglio e ogni ora fino alla mattina. E la mattina mi alzo stanchissima. Lo credo. Mi pare che quando ero giovane io le mie 8 ore di seguito le facevo sempre, adesso ho 61 anni. Ed è diventato un problema, ma è anche se prendo la pastiglia per dormire, che allora dico lo stesso. Professor Ferini Strambi, si dice, no, che passando un po' con le primavere il sonno diventi sempre più frammentato. Ma che cosa può fare Bruna? Allora, questo è uno di quei casi, qui lo dico con tranquillità, è uno di quei casi in cui il sonno andrebbe studiato. Non voglio fare delle semplificazioni, ma per avere così dei dati così. Allora, quando c'è un problema di addormentamento, non è difficilissimo a volte arrivare a capire qual è la causa, perché la causa può essere un disturbo d'ansia, perché la causa può essere la sindrome delle gambe senza riposo, cioè quindi spesso si riesce a identificare la causa. Quando ci si risveglia molto presto al mattino, a volte la causa appunto è relativa a un problema di deflessione del tono dell'umore, insomma, ecco, non voglio dire magari una depressione vera e propria, ma comunque il tono dell'umore che cala. Quando invece ci sono problemi di frequenti risvegli nel corso della notte, ecco, questi casi andrebbero studiati, in questi casi va valutato il sonno. Perché? Perché le cause possono essere tantissime. Pensiamo ad esempio al fatto di avere il miocrono notturno, cioè quegli scatti alle gambe che creano questi risvegli nel corso della notte. Il problema può essere legato a un problema respiratorio durante la notte. Ecco, bisogna in questi casi cercare di registrare il soggetto, perché non si può molto spesso dalla semplice racconto del paziente o del soggetto riuscire a capire qual è la vera causa. Quindi c'è un esame molto semplice che registra proprio tutto il sonno, no? Trascrive il nostro sonno. Esattamente, ecco, in questi casi è opportuno farlo, perché sa qual è poi l'errore? L'errore che si fa è quello che, come diceva l'ascoltatrice, poi si utilizza una pillola, la pillola non funziona bene, poi si cambia, si va un'altra pillola, cioè quindi ecco, si fanno i tentativi, no? Ecco, queste cose assolutamente andrebbero evitate. Essere e benessere. Adesso vi porto a Bergamo a salutare Paolo, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Paolo. Allora, semplicissimo, io praticamente per un po' il lavoro che svolgo, un po' anche per carattere, tendo veramente a dormire poco la notte, molto poco, un po' perché arrivata diciamo l'ora di andare a dormire, comincio a ripensare alla giornata e la testa va altrove. Però fortunatamente ho trovato un potentissimo calmante che è la mia moto e mi capita spesso la notte, molte notti a settimana, verso mezzanotte una, prendo la moto, faccio un bel giro di mezz'ora, un'ora, torno a casa, sono calmo e riposato e riesco a dormire. Ah Paolo, dottor Aguilar, sì, perché una moto per amica, ecco. La moto è una cosa che Paolo può controllare. Mentre le altre cose, le altre preoccupazioni della giornata probabilmente può controllarle fino a un certo punto. La prima ipotesi che mi viene di pensare è proprio questa: di fronte ad una realtà difficilmente controllabile e che mi assale con i suoi pensieri e le sue preoccupazioni, faccio un giro in moto, è una cosa che controllo io, che mi dà un senso di potere, che mi consente pian piano di distogliere l'attenzione dalle mie preoccupazioni e di concentrarmi su quello che vedo intorno, avendo anche nel caso di questo ascoltatore, come in quello dell'ascoltatore di prima, una sensazione piacevole collegata al buio e alla quiete della notte, che non è per tutte le persone, perché per alcune persone invece il buio e l'eccessivo silenzio sono portatori di spavento e di preoccupazione allarmata, e quindi con un bel giro in moto la persona si concilia con le emozioni agitate del preaddormentamento e prende sonno tranquillamente. È un'ottima idea del nostro ascoltatore. Noi di solito quando non riusciamo a dormire o facciamo sogni brutti, abbiamo notti agitate, molto spesso, specie se il disturbo è occasionale, diamo colpa alla cena della sera prima: ho mangiato troppo, mi è rimasto pesante qualcosa, e sicuramente il cibo influisce sulla qualità del sonno e su alcuni disturbi che frammentano il riposo notturno. In linea con noi abbiamo il dottor Filippo Ongaro, buongiorno. Buongiorno a voi. Direttore sanitario dell'Istituto di Medicina Rigenerativa e Anti-Aging di Treviso e consulente dell'Agenzia Spaziale Europea. Ha appena pubblicato un libro, Mangia che ti passa, PM Edizioni. Dottor Ongaro, in cibo e sonno, che relazione esiste tra questi due momenti così importanti della nostra giornata? Tutte e due sono nutrimento, entrambi, no? Il cibo nutre e anche il sonno. Il professor Ferini Strambi ci ha spiegato quanto sia importante. È in fondo un altro genere di nutrimento, ma è ugualmente importante. Ma io credo che sia assolutamente vero, diciamo che si fa prima ad elencare le pochissime, forse in realtà non esistono, cose con cui nutrizione e sonno non sono connesse, cioè sono due pilastri fondamentali della nostra salute e quindi sono anche interconnessi tra loro. Quello che stava dicendo lei un attimo fa dei disturbi magari occasionali del sonno che così in via intuitiva imputiamo all'alimentazione, in realtà basta pensare per esempio al mangiare troppo tardi e quindi andare a letto quando la digestione è ancora attiva o all'assumere caffè nelle 6 ore prima di andare a letto, sono per esempio piccoli errori che però possono avere anche un impatto abbastanza importante. Poi dopo c'è un lungo discorso che si conosce da tanti anni dei carboidrati che tendono a favorire la formazione di neurotrasmettitori che inducono il sonno, o viceversa le proteine che tendono ad attivare, e anche una serie di principi nutrizionali, nutraceutici, che hanno un effetto importante sul sonno, tra cui il triptofano, il 5-idrossitriptofano, la stessa melatonina che è molto conosciuta. Quindi direi che c'è molto legame tra queste due sfere della nostra salute. Il riposo, abbiamo detto, è necessario, al di là del fascino che la notte esercita su molti di noi, insomma prima o poi dobbiamo un po' riposare, quindi anche perché quando dormiamo si attivano processi molto importanti, li abbiamo ricordati alcuni, dottor Ongaro? Ma c'è una parte della ricerca molto interessante che riguarda la nutrizione, che si avvicina sempre di più alla componente molecolare. Noi siamo in questo momento in medicina davanti a un grande cambiamento, stiamo passando dalla medicina degli organi e dei tessuti alla medicina della cellula. Sì. E relativo al sonno c'è sicuramente un tema molto interessante, che è quello che durante il sonno in realtà avvengono moltissimi processi di riparazione a livello genomico, quindi che riguardano il nostro DNA, che non possono avvenire di giorno quando l'attività a livello di espressione genica del nostro DNA è molto più acceso, nel vero senso della parola, e la notte, il sonno, l'abbassamento della temperatura corporea sembrano favorire in realtà l'amplificazione di questi processi, che sono vitali per smaltire le migliaia di mutazioni che in realtà il nostro DNA accumula costantemente. Quindi anche nell'ambito molecolare sembra esserci una relazione. Il fatto di mangiare molto tardi e quindi andare a letto con un'attività digestiva ancora in corso potrebbe in parte perlomeno inficiare questi aspetti di riparazione molecolare e quindi amplificare, diciamo, il rischio di accumulare mutazioni a livello genetico. Dottore, lei si è occupato per anni dell'invecchiamento accelerato negli astronauti, sviluppando dei metodi di intervento per rallentarli, che sono stati adottati sia dall'ESA che dalla NASA, dove ha lavorato a lungo presso il Johnson Space Center di Houston. Nello spazio il corpo umano invecchia ad una velocità drammatica e i medici e i ricercatori hanno elaborato e sviluppato tecnologie per contrastare questo processo. Noi, basta che di tutta questa ricerca potrebbe beneficiare anche la medicina anti-aging pensata e formulata per chi resta sulla Terra e vorrebbe starci bene il più a lungo possibile? Certo, io guardi, tanto per dare un numero che penso possa essere interessante, molte ricerche hanno confermato che circa 6 mesi in orbita corrispondono a 10 anni a Terra. Quindi noi sappiamo bene che l'invecchiamento può essere accelerato, ci sono molti processi che accelerano l'invecchiamento anche per noi terrestri, non solo negli astronauti. Allo stesso modo molte ricerche hanno indicato che l'invecchiamento può essere modulato e io credo che molto di questo sia già disponibile oggi. Forse è più una questione, non tanto una questione di ricerche e evidenze scientifiche, quanto una questione di aggiornamento della metodologia clinica dei medici, ecco, che sì, è più impostata al curare la malattia che al mantenere la salute. Questo è un vecchio tema che però ancora in qualche modo non è stato risolto. Certo. Io vorrei, negli ultimi 2 minuti di trasmissione, chiedere a ciascuno dei miei ospiti un augurio per la prossima notte. Dottor Aquilar. Ma l'augurio è di riflettere sulle emozioni positive che abbiamo avuto negli ultimi tempi. Un'immagine di noi stessi energici, piacevolmente emozionati, contenti e sicuri in una relazione. Quello ci concederà il sonno. Professor Ferini Strambi? Ma l'augurio è quello di addormentarsi con tranquillità, con serenità, di fare un bellissimo sogno e di avere poi la fortuna di poterlo ricordare al risveglio. Quindi non soltanto risvegliarsi riposati, ma con, diciamo, l'aspetto, la carica emotiva positiva di un bel sogno che si riesce a ricordare. Dottor Ongaro, Ma io vorrei restare più sul cellulare e augurare alle persone di pensare davvero al sonno alla notte come a un fantastico momento di rigenerazione in cui complessissimi processi cellulari si attivano e fanno sì che le nostre cellule, le molecole che ci mantengono vivi e sani, riescano il giorno dopo a ridarci tutta l'energia e la vitalità che ci serve per affrontare la giornata. Grazie ai miei ospiti, mi raccomando, passatevi una buona giornata e dopo una bella dormita ci ritroviamo qui domani come sempre alle 11 dopo il GR. Con me, vi anticipo, ci sarà un cantante di fama internazionale, Christopher Cross. Mi raccomando, non mancate. Buona giornata, domani da Nicoletta Carbone.